Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti, buon lunedì. Abbiamo Carmelo Lauricelli, regia alla parte tecnica, e Laura Vanossi in redazione. Ma oggi non mi attardo nei saluti, preferisco lasciare spazio a due amici che oggi, in occasione della giornata mondiale del donatore di sangue, hanno un messaggio per noi. Saluto Stella ed Enrico, benvenuti. Grazie, buongiorno. Grazie anche a voi. Stella, allora, iniziamo dalla tua storia. Sì, la mia storia è iniziata nel 2007, ero una donatrice di sangue e andai a fare una donazione e dopo un paio di mesi mi mandarono i risultati a casa, perché chi dona il sangue ha anche una prevenzione gratuita, quindi tutte le analisi poi vengono consegnate a domicilio, quindi anche questa bella possibilità, e però ci furono troppi asterischi. Quindi ritornai a fare questo controllo e da questo controllo purtroppo si accorsero che avevo una leucemia fulminante. E da lì ho iniziato a fare una battaglia contro la leucemia. Certo, una battaglia che tu hai vinto, ma che hai vinto anche grazie alla tua determinazione, alle cure e alla generosità di tante persone. Sì, perché stando poi in un reparto purtroppo ematologico, ed essendo anche io una donatrice, non ho mai capito la vera importanza della donazione di sangue, non sapevo dove andava a finire il mio sangue veramente, pensavo ai grandi interventi chirurgici, agli incidenti stradali, ma stando lì ricoverata in quel reparto, facendo chemioterapia, vedendo non solo io ma anche le compagne mie di stanza e tante altre persone, ho potuto vedere che grazie alle donazioni di sangue noi siamo ancora vivi, grazie a queste sacche di sangue. Quindi a queste persone generose, perché nel momento in cui noi iniziamo a fare chemioterapia i nostri valori iniziano ad appazzarsi, quindi vengono uccisi tutti i valori, sia quelli buoni che quelli cattivi, e in quel momento noi abbiamo una necessità estrema di trasfusioni giornaliere di sangue e di piastrine. Stella, io voglio ricordare anche il tuo sito dove hai raccontato la tua storia, è Arcobaleno della Speranza, vero? Esatto, www.arcobalenodellasperanza.net. Un libro che racconta la storia. Sì, che si intitola L'Arcobaleno della Speranza, anche a noi è successo. E sia il sito che questo libro hanno diversi obiettivi. Il primo, dove noi raccontiamo la nostra storia, la nostra malattia, che cos'è la leucemia, cosa sono i linfomi, come si vive in un reparto sterile, come si affrontano i trapianti di midollo osseo e la tanta voglia di vivere delle persone che vengono ricoverate per lunghi mesi in questi reparti, e in più c'è la sensibilizzazione verso le persone per diventare donatori di sangue e diventare donatori di midollo. Quindi per noi è fondamentale sensibilizzare la gente verso questo gesto, che è semplice e indolore ma è grandissimo. E ringraziare anche tutti i donatori. Stella, rimani perché voglio dare la parola ad Enrico, un'altra storia da raccontarci che dimostra quanto il sangue può essere una vera terapia per alcuni malati. Enrico. Esatto. Io ho 40 anni e praticamente faccio trasfusioni da quando ho un anno e mezzo, in realtà da quando mi hanno scoperto la talassemia. Sì. E diciamo che purtroppo per me, insomma, se non c'è il donatore io non vivo. Quindi bisogna sempre pensare che il donatore è una fonte importante per tutti e soprattutto per me, che sono talassemico. Certo, Enrico, e come te tutti i talassemici, che sono davvero tanti. Nel mondo i pazienti affetti da questa malattia sono circa 3 milioni, ogni anno sono 330.000 i bambini che nascono affetti da emopatie congenite, e di questi il 17% è affetto da talassemia. Io ringrazio Enrico, ringrazio Stella, ringraziamo i donatori, abbiamo visto che il sangue può essere terapia e può essere cura. Grazie Enrico, grazie Stella, buona giornata. Grazie a voi che ci avete dato questa possibilità, e ringrazio anch'io tutti i donatori di sangue. Grazie Stella, un abbraccio. Bene, sono due storie che toccano il cuore, soprattutto ci fanno capire che la vita, molte vite, sono appese non tanto ad un filo, quanto ad un gesto. E di questo gesto parliamo oggi, proprio in occasione della giornata di cui vi parlavo, la giornata mondiale del donatore di sangue. In nostra compagnia abbiamo la professoressa Gabriella Girelli. Buongiorno professoressa e benvenuta. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Ordinario di immunoematologia all'Università La Sapienza e direttore dell'unità operativa complessa di medicina trasfusionale del Policlinico Umberto I di Roma. Professoressa Girelli, la giornata cade in un mese strategico. Tutti sappiamo che se è vero che c'è bisogno di sangue tutto l'anno, in alcuni periodi dell'anno la richiesta aumenta e l'estate è un periodo molto delicato. Lei sta dicendo una cosa molto molto giusta, è vero che c'è bisogno tutto l'anno, ma in questo momento la situazione si fa più terribile perché un po' a causa del caldo, un po' perché anche i donatori hanno diritto al loro giusto periodo di ferie, i servizi trasfusionali sono un po' disertati, mentre dall'altra parte restano per tutta l'estate i pazienti con i loro problemi di patologie croniche e di patologie acute. Resta quindi la necessità di effettuare trasfusioni di sangue, non si ferma il mondo dei trapianti che anzi a causa purtroppo dei politraumi, a causa degli incidenti stradali che sappiamo bene intervengono durante il periodo estivo in misura superiore, ecco, hanno bisogno del supporto dei donatori. Lei mi consenta, dottoressa, io desidero tanto ringraziare i due giovani con la loro testimonianza perché danno un senso a tutto quello che stiamo dicendo e soprattutto danno un senso ai donatori che ascoltano questa trasmissione. 800 24 0024 è il nostro numero verde a cui potete chiamare per intervenire in trasmissione, i messaggi al 349 238 6666. Oggi, professoressa, col suo aiuto vorrei lanciare un appello per invitare chi ancora non ha mai donato a donare. Questo è il primo passo e questo è quello che vogliamo dire oggi, questa giornata, e continuarla a ripetere tutto l'anno. Sì, mi associo indubbiamente al suo appello e questo appello lo rivolgo soprattutto ai giovani. Guardi, si è concluso sabato a Milano il congresso di medicina trasfusionale dove erano presenti ospiti internazionali, oltre che ovviamente a tutti noi trasfusionisti italiani, e si è ribadito come purtroppo i consumi sono in netto aumento, non perché si sprechi ovviamente. Allora, appare lampante come i cambiamenti demografici incidano su questi consumi e siamo tutti felici che l'età media sia allungata, ma non dimentichiamo che con l'allungamento dell'età media aumentano anche patologie che necessitano di essere trasfuse. Certo. Dall'altra parte, queste persone sane o anche se sane escono dalla possibilità di poter continuare la donazione perché la legge dello Stato ci dice che si può donare tra i 18 e i 65 anni. Allora si assiste a un non totale ricambio dei donatori che escono dalla possibilità di donare. È assolutamente necessario creare nei giovani una cultura della solidarietà. Assolutamente. Perché senza solidarietà è una società civile, credo che abbia poche speranze. Ma professoressa, oggi noi vogliamo fare di più, vogliamo dire a chi ha donato saltuariamente di tornare a farlo con regolarità e qua vorrei che lei ci aiutasse a capire una cosa importante. La generosità vale ancora di più se è costante. Allora, indubbiamente vale per chi ha bisogno, ma io vorrei sottolineare che vale anche per la persona che dona. Perché il donatore periodico è un donatore che ha ben compreso le motivazioni di una donazione consapevole. Cosa voglio dire? Che certo non si espone ad una donazione se sa di essersi precedentemente esposto a fattori di rischio. Dall'altra parte il donatore periodico viene sottoposto per legge dello Stato a tutta una serie di accertamenti che valutano periodicamente il suo stato di salute. A cui accennava appunto Stella. Allora, io chiedo aiuto ai tanti volontari che oggi vogliamo festeggiare, che sono all'ascolto. Ho una richiesta per voi. Inventatevi, create uno slogan che racchiuda il valore e l'importanza della donazione. Chiamateci 824 00 24 o scriveteci al 349 238 6666 e il vostro messaggio rimarrà sulla pagina di Essere Benessere con la vostra firma se lo volete, per tutta questa settimana. Naturalmente potete anche inviarceli all'indirizzo di posta elettronica esserebenessere@radio24.it, ma come sempre, come si dice, voglio darvi un aiutino, anzi quattro aiutoni, perché in linea con noi abbiamo i rappresentanti delle quattro associazioni di donatori di sangue. Saluto subito la dottoressa Patrizia Ravaioli, direttore generale della Croce Rossa Italiana. Buongiorno, dottoressa, benvenuta. Buongiorno, bentrovati, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, festeggiamo la giornata mondiale del donatore di sangue con uno slogan che possa illuminare, dare da stimolo anche agli ascoltatori che vogliono oggi convincersi a diventare donatori, oppure mandarci un messaggio per convincere chi ancora non ha mai donato. In questo senso lo slogan scelto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità è veramente significativo. Lo slogan è New Blood for the New World, cioè nuovo sangue per un mondo nuovo. E allora in questo senso secondo me è molto importante sottolineare per tutti la possibilità con un piccolo passo di cambiare veramente il mondo, perché delle volte si fanno battaglie enormi che magari non possiamo vincere da soli. Ecco, questa invece è una cosa che noi possiamo fare e io vorrei sensibilizzare, oltre a quanto diceva la professoressa, la cultura della solidarietà, la cultura della responsabilità, cioè ognuno deve fare la propria parte, ognuno deve prendere il proprio commitment. Quindi andate giovani e meno giovani a donare il sangue, e la cultura della consapevolezza, la consapevolezza che con questo piccolo gesto, perché non prende più di un'ora, con questo piccolo gesto si possono salvare delle vite umane. Circa 10 minuti. Grazie dottoressa Ravaioli per essere stata con noi, e abbiamo in linea il dottor Aldo Zino Calligaris, presidente FIDAS. Buongiorno. Buongiorno dottoressa Carbone. Buongiorno. Vorrei uno slogan anche da lei. Allora, chi dona il sangue dona la vita, e questo lo sappiamo bene, ma la cosa più importante è che la donazione del sangue è un gesto solidaristico che aiuta veramente chi ha bisogno, i pazienti talassemici, gli ammalati, ma aiuta un sistema sanitario nazionale che è fondato su una donazione volontaria e responsabile a garanzia del buon funzionamento del sistema trasfusionale. Quindi nella donazione c'è un gesto di generosità, c'è un gesto di attenzione all'altro, ma c'è anche un'attenzione verso se stessi per l'attenzione con cui si perseguono dei corretti stili di vita e delle buone abitudini. Grazie al dottor Aldo Zino Calligaris, buona giornata. Grazie. Prego, per essere grazie stato a con noi. E andiamo alla dottoressa Rina Latu, che è vicepresidente vicario di AVIS. Buongiorno dottoressa. Buongiorno a voi. Qual è il messaggio dell'AVIS per la giornata di oggi? Allora, intanto grazie dell'opportunità che ci viene data. Giornata mondiale del donatore di sangue, la domanda che ci poniamo: chi indovina di cosa abbiamo bisogno? Abbiamo un braccio teso e sotto ancora, diciamo, tutti dovremo farlo. Io mi rivolgo ai giovani e dico: ragioni per doverlo fare questo gesto di solidarietà ce ne sono infinite, trovatemene una per cui questo gesto non si debba fare. Ragazzi, il mondo del volontariato, non abbiamo il tempo di soffermarci a riflettere perché abbiamo esigenze pressanti di bisogni ai quali dobbiamo rispondere. Quello che vi chiedo, dateci una mano, non fate invecchiare questo mondo, perché aiutando gli altri state garantendo il vostro ed il nostro futuro. Vi aspettiamo numerosi, perché so che siete giovani ma siete grandi. Grazie. Grazie a lei dottoressa Latu, e intanto arrivano già numerosi messaggi. Voglio leggere questo di Marco da Reggio Emilia: una goccia di sangue per un mare di speranza. E saluto il dottor Luigi Cardini, presidente Frates. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Chiudiamo con il suo slogan. Sì, oggi fra l'altro vorrei, se permettete, ringraziare tutti quei donatori, milioni, che donano periodicamente il sangue e di cui oggi è la loro festa. Certo. E siamo qui in Alghero a festeggiare proprio questo gesto di amore, di altruismo, che fa sì che nelle strutture sanitarie del nostro paese sia sempre presente questo bene che fra l'altro solo l'uomo può produrre. Uno slogan che proporrei: chi oggi non è donatore di sangue faccia in modo tale che questa sia anche la sua giornata, affinché raggiungiamo l'autosufficienza completa nel nostro paese e possiamo così salvare e curare gli ammalati di tutta l'Italia. Grazie al dottor Cardini, buona giornata. Grazie a voi. Allora professoressa, tanti spunti su cui ragionare. Noi nell'attesa che i nostri ascoltatori intervengano all'824 0024 per raccontarci le loro esperienze, esperienze, ma anche per così condividere con noi le paure, i dubbi. Io vorrei fare informazione. Sappiamo che per donare è necessario avere 18 anni e non aver superato i 65, essere in buone condizioni di salute, pesare almeno 50 kg, ma lo abbiamo sentito dai vari rappresentanti delle associazioni di volontariato. C'è ancora una parte, no, di italiani che faticano, no, a fare questo gesto. A volte è più facile donare il superfluo che una parte di sé. Allora, proviamo a fare chiarezza. Partiamo, professoressa Girelli, se lei è d'accordo, dalle paure più comuni, che a volte abbiamo persino timore di confessare. La prima è la paura del lago e del prelievo, la vista del sangue. Professoressa Girelli. Sì, allora, mi permette, prima di rispondere alla sua domanda, di associarmi a quanto lei dice con un esempio che a lei sembrerà paradossale, ma è accaduto proprio a me. Sì. Stavo entrando una mattina, come tutti i giorni, no, verso le 8 nel mio istituto, e c'era sulla strada un giovane che stava facendo footing. Sì. Allora si è fermato, ovviamente all'ingresso dell'istituto c'è scritto struttura trasfusionale, eccetera, centro donatori, e mi rivolge questa domanda. Senti, lei lavora qui? Ho detto sì, certo. Cioè, senta, io vorrei donare, ma mi dicono che donando si possono contrarre infezioni. Allora, credo che la domanda, lui non poteva scegliere persona più giusta, no? Per sì. avere spiegazioni. Sì. Allora, vede, anche questo è un concetto assolutamente errato, perché troppo spesso i mass media, non lo so, non lo spiegano bene, è inculcata l'idea che con la donazione si possono contrarre infezioni. Allora, questo non è assolutamente vero, perché tutto il materiale che si usa è monouso e a perdere, e c'è una confusione invece con quello che è il rischio residuo di una trasfusione. Allora, è ricevere il sangue che ancora può comportare un qualche rischio, ma non certo il donarlo. Certo. Poi c'è la paura del lago, indubbiamente. Allora, i donatori periodici non hanno bisogno di spiegazioni, certo. Lo hanno provato, ma per parlare a coloro che devono avvicinarsi a questo gesto nobile, bisogna dire che il lago è poco più grande di quello con cui si esegue un normale prelievo di controllo. Quando si va in un laboratorio qualunque a fare esami del sangue, no, usano un ago per prelevare il sangue. Poi volevo anche dire che negli ultimi anni la qualità di questi strumenti è tale che, può dirlo chi dona, in realtà non c'è questo dolore, capito? È più un problema psicologico che non è un gesto fisico vero e proprio. Cioè, lei ha accennato appunto alla paura per la propria salute di contrarre infezione, ma c'è anche chi dice: se il sangue serve nelle giuste quantità, cosa mi succede se me ne tolgo una parte? Come reagirà il mio fisico? Di tutti questi dubbi, paure, parleremo nel corso della trasmissione. Intanto devo dire che arrivano tantissimi messaggi, vi leggerò gli slogan che avete creato proprio per noi oggi, Giornata Mondiale del Donatore di Sangue. Stanno arrivando al 349-238-6666. Eccoci, siamo tornati insieme in questa giornata di festa in cui vogliamo ringraziare i donatori che con il loro gesto salvano davvero tante vite. Vogliamo anche convincere, e alcuni ascoltatori mi hanno scritto che nelle passate puntate ce l'abbiamo fatta, alcuni di voi a fare questo passo, no? A regalarvi, come dice Alberti in un suo messaggio, fatti un regalo, dona sangue. State attenti, cerchiamo di recuperare tutte le informazioni necessarie, perché a chiusura della nostra trasmissione faremo un quiz, quindi candidatevi a partecipare, non sarete soli ma avrete un campione che vi affiancherà per fare centro. Chiamate rapidamente, uno di voi avrà il piacere di fare coppia con Igor Cassina. 800 24 00 24, 349 238 6666. Vi leggo alcuni messaggi che sono arrivati, alcuni slogan. Donare sangue ti fa sentire vivo, Maria Carla. Se doni il tuo sangue migliori la tua vita, Umberto. Se hai sangue nelle vene dimostralo, donalo, Joe72. Chi dona non è mai solo, ci scrive Giorgia. E ad altri numerosi messaggi che vi leggerò nel corso della trasmissione e lasceremo nella pagina di Essere Benessere. Intanto io ho Giovanni, Carlo, Manuel, Massimiliano. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Nicoletta, grazie per avermi dato l'opportunità. Dopo tanto tempo è arrivato anche il mio turno. Io volevo chiedere alla dottoressa, porre il mio quesito. Sì. Io ho fatto l'ultima donazione a febbraio di quest'anno, la 176esima. Poi m'hanno licenziato, nel senso che compì 67 fra 10 giorni, hanno detto questa è l'ultima. Sì. E arci contento di averla fatta e non mi posso lamentare per aver goduto tanta salute nella mia vita. Certo. Però, come tutte le storie lieto fine, c'è il rovescio della medaglia. Il mese di aprile, a seguito di un intervento chirurgico, mi è stato trovato un carcinoma di alto grado con cellule giganti alle vie urinarie, e sto facendo tuttora la chemio, convintissimo di superare anche questo ostacolo. Sicuramente. Volevo chiedere alla dottoressa se è possibile che uno come me, controllato ogni 3 mesi al 100%, mai avuto nulla di nulla, e poi alla fine si ritrovi non certo per colpa delle donazioni, ma si ritrovi ad avere questo problema? Questo problema. Professoressa Girelli, i controlli, dice Giovanni, sono stati costanti e poi lui ha scoperto di avere questo problema di salute. Si poteva prevedere? Allora, intanto mi lasci esprimere tutta la mia ammirazione al donatore per quello che ha fatto durante la sua vita. E dall'altra parte lei capisce bene che se non incideva su quelli che erano i marcatori che si vanno a la malattia non incideva sui marcatori che si vanno a cercare, è difficile che uno possa accorgersi di un problema così importante. Certo. Le faccio un esempio. Noi abbiamo avuto tra i nostri donatori il rilievo di neoplasie anche importanti grazie agli esami che vengono effettuati. Sa bene il nostro donatore che la ferritina è un esame che viene eseguito almeno una volta all'anno e che valuta i depositi di ferro. Sì. Allora un nostro donatore, quindi uomo, quindi non come le donne che hanno una perdita cronica ciclica e quindi più facilmente possono andare soggetti a carenza di ferro, dicevo, questo donatore di sesso maschile, pur donando solo 2 volte l'anno, aveva i valori di ferro sempre molto bassi. Abbiamo messo in piedi delle indagini per capire per quale motivo il nostro donatore aveva un cancro del colon in fase iniziale. È stato sottoposto ad intervento chirurgico, ora sta benissimo, non dona, ma fa parte del gruppo di volontari che tanto sono necessari per l'assistenza, per il richiamo, ecco, opera nell'associazione per gli altri donatori. Volevo dire questo, che purtroppo lo sappiamo bene, non sempre le neoplasie danno segno di sé in maniera tale da accorgersi in maniera precocissima. Vi leggo degli altri. Io mi auguro che quanto stanno facendo possa risolvere il problema del nostro donatore e anche lui possa appartenere poi a quello staff di persone che continuano a collaborare ad altro titolo con l'associazione donatori di sangue, che sono fondamentali. Gian Piero Marino ci scrive: il vero povero è colui che non sa donare, mentre Giordano ci scrive: dona il sangue, l'unico regalo che non ti svena. E vado da Carlo dalla provincia di Ancona. Buongiorno Carlo. Buongiorno a voi, sono infermiere, quindi addetto ai lavori. Permettetemi intanto un saluto a tutti quanti, una piccola battuta: parlate degli infermieri quando parlate di sanità, perché siamo noi che infondiamo le sacche, siamo noi che preleviamo il sangue, siamo il front office della sanità, sia italiana, io lavoro all'estero, sì, ma anche della sanità all'estero, quindi parlate degli infermieri. Io sono un donatore felice da 40 anni, da 20 anni, sono ormai alla 40ª donazione. È un gesto altruistico, ma è anche un gesto, se vogliamo, egoistico. Poter essere controllati, poter avere le analisi del sangue ogni 3 mesi, poter chiedere magari il controllo del PSA come faccio io adesso che ho superato i 45 anni, poter fare tante cose anche per sé. Poi alcuni miti da sfatare: una volta si dava la bistecca dopo la donazione di sangue, in realtà il vero problema è solo l'abbassamento della volemia, quindi basta una bottiglia d'acqua da mezzo litro. per reintegrare queste. Ecco, così Carlo, davvero infermiere, lei ha dato anche un'indicazione che dice: dono il sangue e poi svengo. Che figuraccia, non si sviene, vero Carlo? Sì, non si sviene, diceva giustamente la dottoressa, si può svenire per l'impressione, l'ago è un pochino più importante di quello dei prelievi, però poi ci si fa l'abitudine e, ripeto, si è controllati e poi con un caffè si alza un pochino la pressione, si hanno dei problemi. Intanto la pressione viene controllata prima e dopo la donazione di sangue. Quindi, Carlo, io la ringrazio perché lei ha aggiunto anche la parte del donatore, anche la professoressa Girelli immagino sia donatrice, ma anche del ruolo dell'infermiere, che mi fa piacere sottolineare il ruolo così importante. Quando entriamo in ospedale, se l'infermiere ci accoglie con un sorriso, con un gesto, il cuore si riprende subito. Grazie a Carlo. Andrei da Manuel da Brescia. Buongiorno Manuel. Buongiorno a voi e complimenti per la trasmissione. Ascolti, io vorrei diventare donatore di sangue, sì, ma non so che, avendo contratto un'epatite alimentare 10 anni fa, se posso farlo oppure no. Grazie, perché la professoressa Girelli le risponde subito. L'epatite A assolutamente non controindica la donazione, se ormai è passato ovviamente del tempo ed è perfettamente guarita. Ipertesi, intanto io le metto qualche domandina che arriva al 349-238-6666. Ipertesi e diabetici possono donare, professoressa Girelli? Il diabetico può donare se non è in trattamento con insulina. Gli ipertesi di grado importante ovviamente no, ma la lieve o media ipertensione può donare a patto che non siano in trattamento con dei farmaci particolari come i beta bloccanti. Un ascoltatore mi scrive: peso 90 kg, posso donare? Assolutamente sì. Senta professoressa Girelli, negli Stati Uniti, ci scrive Alessandro da Torino, in uno screening per donazione mi è stato detto che, essendo stato in Inghilterra negli anni 90, non erano interessati al mio sangue, causa rischio mucca pazza. Vale anche da noi? Sì, vale anche da noi. È prevista una sospensione appunto che è stato nel Regno Unito per un periodo di 6 mesi, che non deve essere continuativo, poteva essere anche la somma di più intervalli, tra il 1980 e il 1996, al momento non può donare sangue in Italia. Professoressa Girelli, nel 2003 ho avuto la malaria, posso donare sangue? Ci chiede Gianluca da Firenze. Allora, la malaria è un criterio di esclusione che prevede diverse cose. Se ha avuto la malaria non può donare i globuli rossi, perché i globuli rossi sono i vettori dell'agente eziologico. Può donare altro? Il plasma, esatto, che va al frazionamento industriale per la produzione degli emoderivati. Ecco, io, professoressa Girelli, rispondendo a Gianluca da Firenze, possiamo, senza entrare nel tecnico, dire agli ascoltatori: diventate donatori, poi una parte, se non tutto, del vostro sangue può essere utilizzata, giusto? Certo, certo. Mi sembra che questo sia un po' importante, perché ci sono delle persone che si autoescludono dalla donazione. Sì, sì, anzi, se lei permette, io vorrei sottolineare questo fatto. La domanda del donatore era molto puntuale. Allora, l'Italia non ha raggiunto assolutamente l'autosufficienza in tema di plasma, è ben lontana, e dal plasma però si ottengono quegli emoderivati indispensabili nella pratica quotidiana, come l'albumina, le immunoglobuline, il fattore ottavo per la cura di problemi della coagulazione. Ecco, quindi assolutamente si presenti al servizio trasfusionale e doni serenamente il proprio plasma. I fumatori possono donare? Sì, possono donare, anche se sarebbe meglio di no, per la loro salute. Massimiliano ci chiama invece da Napoli. Buongiorno Massimiliano, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei, alla dottoressa e a tutti gli amici in ascolto. Sì, ci racconti, ha una domanda o una testimonianza? Testimonianza. Bene. Tre cose precisamente. Allora, sono donatore, quindi questa qua non conta, però volevo aggiungere una cosa che avete già detto e volevo ampliarla. Oggi è la festa dei donatori, ma anche per chi riceve il sangue. Sì, certo. Perché questa è una cosa che infatti noi abbiamo avuto Stella ed Enrico, che proprio con cui abbiamo aperto la trasmissione, sì, che volevano mandare un messaggio, un grazie a tutte le persone che con un gesto semplice permettono a Stella di continuare a vivere come Enrico, e a tante persone che si trovano nella condizione di avere il sangue o come terapia o come cura o come emergenza. poi volevo dire il mio motto. Sì. Due, allora, donare fa bene a te, ma sicuramente fa bene agli altri. E poi volevo dire una cosa, io ho 41 anni, quindi ai miei tempi non ci hanno insegnato che donare faceva bene. Sì. Anzi, il motto purtroppo a Napoli era, se lo vendono, detto proprio sul vendere. Mm. È una cosa che invece adesso mi sembra che Napoli mi aiuta tanto in questa situazione qua. Grazie. Ti auguro tanti auguri ai donatori e chi riceve questo sangue. Grazie Massimiliano da Napoli. E io saluto il professor Paolo Rebulla, direttore della Milano Cord Blood Bank, sede di Milano, della Banca del Sangue Placentare della Regione Lombardia. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, che cosa ha di speciale e di diverso il sangue placentare rispetto al sangue di cui abbiamo parlato sinora che circola nel nostro corpo? Il sangue placentare è il sangue che rimane nella placenta al termine del parto, una volta veniva gettato perché non si conosceva che questo sangue contiene un numero elevato di cellule staminali denominate emopoieti, che sono cellule molto simili a quelle che si trovano nel midollo osseo e che servono a curare con il trapianto gravi malattie come le leucemie e i linfomi. Prima che questa caratteristica fosse scoperta, questo sangue veniva gettato, oggi viene raccolto in banche e viene messo a disposizione di tutti i pazienti che possono averne bisogno. Allora, quindi è una riserva molto importante che voi invitate a donare. Professor Rebulla, io vorrei che lei si rivolgesse ad una mamma in attesa. Sì, la donazione del sangue placentare è un gesto di generosità verso la collettività e le mamme sono spesso esposte a una specie di dilemma, la possibilità o di conservare questo sangue per un uso personale eventualmente futuro di questo materiale biologico oppure donarlo alla collettività. La nostra raccomandazione è di donarlo alla collettività perché questa è una terapia che attualmente può essere fatta con questo sangue, mentre invece la conservazione a scopo futuro non ha, secondo i massimi esperti mondiali, delle basi scientifiche adeguate. Professor Rebulla, quanto tempo, praticamente, che cosa deve fare una mamma? Ci sono dei tempi da rispettare? La mamma deve comunicare il suo desiderio all'ostetrica e al ginecologo che la seguiranno durante il parto ed è bene che si organizzi con loro per raccogliere la scheda clinica, che è molto simile a quella di un normale donatore di sangue, prima del travaglio, perché durante il travaglio non c'è il tempo, quindi se vuole donare deve informare di questo e idealmente raccogliere questa storia durante i corsi preparto. Grazie professor Rebulla per essere stato con noi, le auguro una buona giornata. Grazie anche a voi, buongiorno. E io saluto il nostro campione Igor Cassina. Igor, ciao, che piacere, campione anche nella vita e nella donazione, Igor. Ciao, grazie, buongiorno a tutti. Da quanto tempo sei donatore, Igor? Dal 2004, da quando ho conseguito la medaglia alle Olimpiadi, sono stato coinvolto prima dall'Avis locale MEDA del mio paese e poi dall'Avis nazionale, quindi mi ha fatto piacere poter essere vicino e di aiuto alle persone che necessitano quotidianamente di sangue. Professoressa Girelli, abbiamo bisogno di campioni, di testimonial. Il donatore è sempre un campione. Igor è un campione due volte. Esatto, è vero. E io spero che il suo esempio, estremamente importante, serva a far capire ai giovani che devono avvicinarsi alla donazione di sangue. Ricordo una frase che disse qualche anno fa il presidente della nuova associazione talassemici italiani, che è veramente toccante, disse: senza questo gesto di amore non avremmo un futuro. Allora, questo mi sento di dire ai giovani che stanno ascoltando. Allora, questo mi sembra veramente un messaggio che vogliamo mettere, metteremo anche sulla pagina di Essere Benessere insieme ai tanti slogan che sono arrivati. Ma io voglio salutare Angelo. Buongiorno Angelo. Sì, buongiorno. Angelo, lei oggi fa squadra con Igor Cassina, non è che capita tutti i giorni? Veramente un orgoglio. Senta, ma lei Angelo si sente preparato o lascia fare tutto a Igor? Vabbè, vediamo. Spero che mi dia una mano. Però io volevo fare una domanda, se era possibile. Sì, veloce. Perché io vorrei diventare donatore, però è stato riscontrato una sarcoidosi e volevo sapere se con questa malattia si poteva donare il sangue oppure no. Professoressa Girelli, prima di far scendere in campo Angelo, aiutato da Igor per rispondere al quiz, può donare? Ecco, cara, non abbiamo avuto tempo di dirlo, ma io volevo cogliere l'occasione per dire che quando un donatore si presenta, è ovvio che ci sono dei medici e che nel rispetto della legge vigente mettono in atto criteri di esclusione o temporanea o permanente, alcuni criteri riguardano la salute, la protezione della salute del donatore, altri riguardano la protezione della salute del ricevente. Allora, purtroppo questa è una malattia infettiva e pertanto è bene che il donatore si astenga dalla donazione. Allora, Angelo, io come lei non può donare, ma può almeno rispondere ad una domanda del nostro quiz. Ecco, secondo lei i donatori di sangue devono avere almeno 14, 16 o 18 anni? Almeno 18 anni. E i donatori di sangue, prima di donare, non devono mangiare? Vero o falso? No, no, possono mangiare. Igor? Concordo. Possono mangiare. Allora, io direi che il quiz che volevamo fare ad Angelo era di altre, insomma, era un pochino più lunghetto. Io devo salutarlo, ma Angelo, che si è candidato, può ricevere a casa il nostro consiglio di lettura di oggi, che è i 36 stratagemmi, l'arte segreta per trionfare nella vita quotidiana. È il nostro consiglio di lettura, grazie a IBS. Quindi Angelo, se ci scrive a essere benessere @radio24.it i suoi riferimenti, riceve questo libro a casa. Io saluto con un saluto speciale Igor Cassina. Grazie che a voi. E sei stato veramente gentile a partecipare, come sempre. La professoressa grazie. Girelli, che ci ha fatto conoscere più da vicino questo mondo così generoso, che va sostenuto. Io desidero ringraziare lei per l'attenzione che ha posto a questo problema e che sicuramente darà i suoi frutti, e desidero ringraziare anche tutti i donatori che oggi festeggiano questo loro gesto tanto importante, e vorrei anche ricordare che il 14 giugno del 1868 nasceva Karl Landsteiner, che è colui che ha scoperto il sistema B0. E quindi festeggiamo anche lui, e ha vinto un Nobel. Professoressa Girelli, io devo scappare. Ai volontari e a chi lo sta per diventare, un saluto da Nicoletta Carbone. Buona giornata, domani.